con Paolo Fallai di Biblioteche di Roma per presentare il Festival Letterature a Roma, Basilica di Massenzio, dal 4 al 27 giugno 2019. Paolo, ben trovato. Beh, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Ci racconti? Sì, volentieri. Le date che hai dato sono assolutamente esatte. 4-27 giugno sono gli appuntamenti di Massenzio, del Festival Letteratura di quest'anno, ma questo sarà il terzo anno che il Festival è affidato alla cura dell'istituzione Biblioteche di Roma. In realtà noi partiamo molto prima, partiamo a maggio, perché oltre a Massenzio abbiamo un ricchissimo programma in tutte le biblioteche civiche di Roma. Come sai, il circuito sono 39 biblioteche, perché abbiamo cercato di impostare un lavoro per cui, fatto salvo il Festival, che consideriamo una tradizione prestigiosa per Roma, noi abbiamo il dovere di portare appuntamenti culturali anche vicino ai nostri utenti e soprattutto in quelle zone molto lontane dal centro, che hanno meno occasioni. Questo è il compito che ci siamo dati. Per cui siamo partiti molto presto e andiamo avanti tutto il mese, non solamente a Massenzio, ma anche fuori. Le Quante saranno le serate, gli eventi? serate a Massenzio sono 10, 8 sono quelle tradizionali che sono fatte invitando gli scrittori più importanti a presentare i loro libri e a scrivere un inedito sul tema del festival, che quest'anno è Il domani dei classici. E quindi ogni martedì e giovedì abbiamo cominciato il 4 con Antonio Scurati, Manuel Vilas e Andrea Santa e andiamo avanti fino al 27, che mi pare sia l'ultimo giovedì del mese, con una serata straordinaria in cui avremo John Lansdale per dirti e abbiamo Roberto Saviano, quindi è una serata importante. Però abbiamo nel frattempo anche due serate di classici non della letteratura scritta. Domenica 9 abbiamo un concerto dell'Accademia di Santa Cecilia che presenta un programma dedicato a Mozart e che torna a suonare alla Basilica di Massenzio dopo 40 anni. E venerdì 14 abbiamo l'Orchestra di Piazza Vittorio che presenta a Massenzio il lavoro e il film che hanno fatto sul flauto magico, sempre di Mozart. Oh, ti sottolineo che tutti gli appuntamenti che noi facciamo come biblioteche pubbliche sono ovviamente gratuiti perché è il nostro marchio di fabbrica. Sì. I criteri di scelta degli artisti e delle artiste? I criteri di scelta sono diversi. Per quanto riguarda la letteratura, cerchiamo di avere uno sguardo molto attento a quelle che sono le ultime novità e i libri più importanti. Per esempio, nella serata inaugurale avevamo Scurati con il suo lavoro monumentale M sulla nascita del fascismo, ha fatto un lavoro molto interessante che è al centro della tradizione letteraria, ma anche Manuel Vilas, che è questo scrittore spagnolo che ha pubblicato In tutto c'è speranza, che è la storia della sua famiglia sostanzialmente. Abbiamo cercato di portare all'attenzione del pubblico il meglio della letteratura uscita nell'ultimo anno, questo è il quadro. Per quanto riguarda il resto del programma, la mia intenzione era quella di ampliare il più possibile i pubblici e rompere anche gli steccati. Per me, voglio dire, una serata di Mozart con Santa Cecilia gratuita è una cosa fondamentale da offrire a tutti, possibilmente gratuitamente, come facciamo sempre noi. Ti racconto altri due aspetti del programma a cui sono molto legato. Il primo si chiama Mamme Narranti, è una cosa che facciamo con Andrea Santa, che come sai è il cantante del gruppo Tête de Bois e che nella vita ha un ambulatorio pediatrico in un paese della provincia di Roma. Con Andrea Santa abbiamo fatto un'operazione per raccogliere le fiabe che le mamme raccontano ai bambini di tutto il mondo, senza confini, senza chiedere da dove vengono, e gliele facciamo raccontare, le facciamo confrontare. Andrea ha portato la sua esperienza sul palco di Massenzio la sera del 4, ma andiamo avanti tutto il mese di giugno con appuntamenti nelle biblioteche molto lontane dal centro e in quattro stazioni della metropolitana, perché il nostro compito è anche quello di andare a cercarci il pubblico e quindi avvicinarlo. E questo è un gesto di attenzione nei confronti dell'infanzia, che è del classico dei classici, perché non mi viene in mente niente più classico delle fiabe, è una cosa di cui vado molto orgoglioso. L'altra cosa è che per la prima volta dopo molti anni noi riportiamo il cinema nell'ambito del Festival Letterature. Dal 23 al 26 giugno, in collaborazione con la Casa del Cinema, nell'arena estiva di Villa Borghese, sai, all'inizio, largo Mastroianni, dove c'è l'arena intitolata Ettore Scola, per 4 sere proporremo dei classici della cinematografia. Cominciamo con Senso di Luchino Visconti, domenica 23. E perché proponiamo Senso? Perché Senso fu il primo film proiettato a Massenzio il 25 agosto 1977, quando l'allora assessore alla cultura Renato Nicolini tentò per la prima volta l'operazione di far uscire le persone e restituire la gioia di stare insieme a guardare un film all'aperto in una Roma abbastanza cupa in anni molto difficili. Il giorno dopo, il 24, sempre all'arena della Casa del Cinema, proporremo un Cyrano de Bergerac con Gérard Depardieu, che è uno dei massimi classici della cinematografia francese. Il 25 avremo Blade Runner, che è il classico dei classici della letteratura di fantascienza, ed è soprattutto un film che ormai ha 37 anni di storia, ma è ambientato nel 2019, quindi ci sembrava un doppio appuntamento importante proporlo quest'anno, e chiudiamo il 26 con una piccola maratona dedicata a Sergio Leone con i suoi peplum, con i film che lui ha dedicato all'antica Roma, per dare un omaggio anche a questo regista che è scomparso 30 anni fa. Il programma delle biblioteche è cominciato prima e in questo giugno si alternerà a Massenzio? Sì, il programma delle biblioteche è cominciato prima perché abbiamo fatto per esempio incontri per presentare tutti e 12 i semifinalisti del premio Strega, che sono stati ospitati nelle nostre biblioteche e hanno presentato i loro libri. È cominciato prima perché abbiamo fatto una serie di incontri importanti. Fammi dire che in questo programma c'è stato ad esempio la presentazione del libro sulla storia segreta di Casa Monica, che ha scritto una collega, una giornalista, Floriana Bulfon, che ha pubblicato Rizzoli, che abbiamo presentato nella nostra biblioteca Raffaello, che è a 500 metri di distanza a Cinecittà dalle famose case di Casa Monica, famose perché nel 2018 sono state quelle che sono state buttate giù dall'intervento delle ruspe, però insomma è in zona sensibile. Poi andiamo avanti ancora questo mese con una serie di iniziative, tra le quali per esempio un'attenzione particolare ai fondi storici delle biblioteche di Roma, che sono un po' il nostro tesoro e che presentiamo e mettiamo a disposizione del pubblico. Fai conto che alla biblioteca Marconi abbiamo il fondo del poeta Giorgio Caproni, che alla biblioteca di Testaccio, che è intitolata Enzo Tortora, abbiamo la collezione completa del Corriere dei Piccoli, e non credo che siano molti i luoghi in Italia che ce l'hanno. Alla stessa Raffaello di cui ti parlavo prima, a Cinecittà, e ne siamo orgogliosissimi, abbiamo il fondo dedicato a Don Sardelli, che è scomparso pochi mesi fa e che proprio lì all'acquedotto teneva le lezioni per i figli dei baraccati negli anni 70. E l'ultima cosa che ti dico, abbiamo alla biblioteca Mameli, al Pigneto, abbiamo inaugurato un fondo sul femminismo dedicato a Bia Sarasini, che è una intellettuale morta nell'ottobre dell'anno scorso, perché il marito e il figlio ci hanno donato 200 suoi libri sul femminismo e noi li abbiamo raccolti, catalogati e messi a disposizione del pubblico. In chiusura, Paolo, ci lasci riferimenti web per la programmazione? Come no, si può trovare tutto sul sito festivalletterature.it, che è un sito dedicato, se no bibliotechediroma.it, con il nostro portale Bibliotur, abbiamo tutti gli appuntamenti segnati uno per uno. Ripeto, tutti gli appuntamenti sono gratuiti e cerchiamo di essere accoglienti nei confronti di tutto il pubblico. E allora ricordiamo il Festival delle Letterature a Roma, Basilica di Massenzio e Biblioteche di Roma, dal 4 al 27 giugno 2019. Un saluto e un ringraziamento a Paolo Fallai dell'Istituzione Biblioteche di Roma. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, in bocca al lupo anche a voi, buon lavoro.